America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, beh, oggi devo dire abbiamo davanti a noi una giornata, beh, storica, una giornata densa di aspetti simbolici, di scambio alla distanza fra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Fra poche ore, alle 11 ore di New York, alle 5 ora italiana, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà nella solennità del Congresso riunito in seduta plenaria a Washington per cercare un accordo congiunto, cioè la denuclearizzazione dell'Iran da una parte e l'eliminazione delle sanzioni che sono state imposte dall'Occidente nei confronti dell'Iran dall'altra. Ecco, qual è l'aspetto simbolico barra drammatico? Che nel momento in cui Netanyahu si rivolgerà fra alcune ore ai parlamentari americani, noi avremo già un'idea di come sono andate le conversazioni, il dialogo tra il segretario di Stato John Kerry e il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. I due si incontrano a Montreux. Ecco, questo è il contesto d'insieme di quello che succederà oggi. Però siccome, come sappiamo, tutto avviene sempre prima, ormai c'è un'accelerazione straordinaria delle notizie, degli sviluppi, le dinamiche di sviluppo di una notizia, ecco che già ieri, giocando d'anticipo, il presidente Barack Obama ha risposto a quello che dirà fra poco Benjamin Netanyahu. E lo stesso Netanyahu ha giocato d'anticipo parlando sempre ieri davanti a un importante gruppo lobbistico ebraico a Washington. When we first announced this interim deal, Prime Minister Netanyahu made all sorts of claims. This was going to be a terrible deal. This was going to result in Iran getting $50 billion worth of relief. Iran would not abide by the agreement. None of that has come true. Ecco, Obama affronta la questione della situazione difficile con Israele. Ricordiamolo, Susan Rice, il capo della sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha fatto dichiarazioni molto pesanti la settimana scorsa, ha detto che il discorso di Benjamin Netanyahu in Parlamento avrebbe avuto un impatto distruttivo nelle relazioni fra Israele e Stati Uniti. Ecco, una dichiarazione eccessiva, secondo me. Israele è l'unica democrazia nella regione, è un partner, un alleato molto forte, indispensabile per gli Stati Uniti, e insomma usare questi termini, devo dire, non è da diplomatici di alto livello. E dunque Barack Obama è intervenuto forse per moderare un pochino i toni e dice: non ho nulla di personale contro Netanyahu. Non è vero, perché sappiamo che i due non si amano, anzi non si sopportano a vicenda, ma insomma la diplomazia è anche, come dire, ammorbidire, imbellire certe cose. Dunque Obama dice: non ho nulla di personale contro Netanyahu, i rapporti con Israele restano forti e le divergenze attuali non sono distruttive, aggiunge, in maniera permanente. Ecco, insomma, come dire che però lo sono nel breve. Poi Obama continua lamentandosi di quelle che sono state delle esternazioni di Netanyahu e le elenca. Dice: Netanyahu ha detto che questo nostro accordo sarebbe stato terribile, che avrebbe portato all'Iran un alleggerimento di 50 miliardi di dollari, che l'Iran non avrebbe rispettato l'accordo sottoscritto già tempo fa, gli accordi preliminari. Niente di tutto questo, dice Barack Obama, si è avverato. E poi, ha aggiunto il presidente, da Teheran dobbiamo avere una garanzia, quella cioè che si impegnerà per un congelamento di almeno 10 anni delle sue attività di arricchimento dell'uranio che possono portare alla creazione di una bomba atomica. Ecco, questa è la posizione giocata d'anticipo di Barack Obama. Sentiamo invece che cosa ha detto Netanyahu. And I'm not going to speak today about the content of that speech, but I do want to say a few words about the purpose of that speech. First, let me clarify what is not the purpose of that speech. My speech is not intended to show any disrespect to President Obama or the esteemed office that he holds. I have great respect for both. Ecco, anche Netanyahu cerca di ammorbidire. Chiaramente non è nel suo interesse avere una spaccatura con gli Stati Uniti d'America. Non è nel suo interesse, nel momento in cui il 17 di marzo si deve presentare agli elettori israeliani, apparire come un leader che ha rovinato i rapporti con gli Stati Uniti, che ha rotto un punto di contatto con la Casa Bianca e con l'amministrazione americana. E dunque Netanyahu è intervenuto anche lui a gettare un po' di acqua sul fuoco. Ha parlato ieri davanti all'AIPAC, che è forse la più importante organizzazione lobbistica ebraica negli Stati Uniti, ma non si sono recati a questo consesso, diciamo, personaggi più importanti dell'amministrazione, proprio per significare, come dire, una irritazione da parte dell'amministrazione. Comunque Netanyahu, nella dichiarazione che ho fatto ascoltare poco fa, dice: il mio discorso, il discorso che ascolteremo fra qualche ora, non vuole in alcun modo mancare di rispetto al presidente Obama o allo stimatissimo incarico che ricopre, ma è mio dovere morale di mettere in luce i pericoli impliciti in un accordo con l'Iran raggiunto grazie alla mediazione americana. Ecco, poi Netanyahu ha mostrato una cartina geografica al pubblico facendo vedere quali sono tutti i collegamenti iraniani con attività terroristiche a livello internazionale. Sappiamo che l'Iran finanzia Hezbollah attraverso la Siria. Hezbollah chiaramente è una spina nel fianco a Israele perché sta destabilizzando il Libano e sta creando dei problemi in Libano. C'è chiaramente una mira espansionistica da parte dell'Iran. Una polemica, come vi dicevo, a distanza. Aspettiamo di vedere cosa dirà Netanyahu nel discorso di oggi, aspettiamo la reazione dei parlamentari americani, aspettiamo se ci sarà un'altra reazione del presidente Barack Obama. L'auspicio naturalmente è che questa rottura vada a ricomporsi e soprattutto che possa andare avanti anche questo negoziato con l'Iran, perché se davvero si dovesse chiudere o dovesse andare avanti sulla base di parametri di garanzia inoppugnabili, per esempio che l'Iran apra tutte le sue porte agli ispettori dell'ONU, per esempio che ammetta di aver fatto delle operazioni di arricchimento dell'uranio che miravano alla creazione di un'arma nucleare, beh, se queste due richieste, che sono richieste dell'America, saranno soddisfatte, io credo che si sarà fatto comunque un passo in avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo visto un minuetto a distanza, un ballo, una danza tra Barack Obama, Netanyahu, il Parlamento americano, il ministro degli esteri iraniano, insomma tutti coinvolti in questo vortice che riguarda il disarmo nucleare. E visto che parliamo di danze diplomatiche, e visto che parliamo di danze in cui c'è un protagonista comunque israeliano, vi propongo di Harry Belafonte, cantante americano straordinario, nato a Harlem con radici in Giamaica, una canzone molto bella israeliana, una canzone che dà il passo di una danza, Ava Nagila di Harry Belafonte. Oro, oro, achim, oro achim, belef sameach. Oro achim velev sameach, oro achim velev sameach, oro achim velev sameach, oro achim, oro achim velev sameach. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.